Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ultimo turno infrasettimanale di campionato, stasera alle 20.30. Molte le partite di primo livello, sia in testa che in coda. Sono difficili, indubbiamente, oggettivamente, le trasferte dell'Inter a Catania, della Juventus a Udine. L'Udinese è in serie negativa prolungata, ma proprio per questo, prima o poi, dovrà insomma trovare il modo di non continuare a perdere. Il turno casalingo del Milan è tutt'altro che facile, visto che c'è il Genoa a San Siro. E ci sono poi quattro scontri diretti, due per la salvezza a Torino, tra Torino e Regina e a Verona per Chievo-Lecce, e due per le zone nobili della classifica, Fiorentina-Napoli e Roma-Palermo. Sullo sfondo, oltre alle tensioni residue di un fine settimana particolarmente avvelenato, anche due ribellioni, quelle di Balotelli nei confronti di Mourinho e di Panucci verso Spalletti. Proprio dal no di Balotelli parte la vigilia del sostituto in panchina di Mourinho squalificato, cioè di Beppe Baresi. Noi sappiamo che i nostri nemici sono fuori, non sono dentro, perché il gruppo, la squadra è molto compatta e ha voglia di arrivare in fondo, in testa alla classifica. L'unica cosa che la società mi ha detto di dire di Balotelli è che Balotelli non è sul mercato e non sarà sul mercato, quindi è un giocatore dell'Inter, rimarrà un giocatore dell'Inter. Una vigilia, insomma, dunque, ancora una volta abbastanza tormentata. L'Inter dovrebbe giocare con una difesa con Julio Cesare in porta, Maicon, Cordoba, Burdisso e Santon come linea difensiva, Zanetti, Cambiasso e Muntari a metà campo, Stankovic alle spalle di Cruz e di Ibrahimovic dopo, ripeto, la volontaria indisponibilità di Balotelli. In panchina Maxwell, Rivas e poi Figo, Mancini, Quaresma e Crespo. La vigilia di Ranieri, la trasferta che dicevo più insidiosa di quanto non possa apparire a prima vista sulla base degli ultimi risultati dell'Udinese. È importante, troppo importante fare il risultato, per cui noi sappiamo dell'Udinese, è un'ottima squadra, però sta in un periodo negativo, ma i giocatori ci sono, i giocatori poi contro la Juventus sicuramente reagiranno, vorranno far bella figura, vorranno dimostrare che quello che stanno passando sia un momento no, per cui noi dovremmo invece essere agguerriti, perché ci sarà da lottare come sempre. Il club di Pozzo sta facendo un lavoro stupendo, perché trova dei ragazzi che poi molti si rivelano dei veri campioni, per cui può esserci un attimo, un'annata dove non si ritrovino, però insomma i giocatori ci sono. La Juventus giocherà con Buffon in porta, Grigera, Melberg, Le Grottaglie e Molinaro nella linea arretrata, Chiellini ancora disponibile, Marchionni, Sissoko, Marchisio e Nedved a metà campo e Amauri e Giovinco davanti. Non c'è Del Piero, non è stato convocato. Bella la battuta di ieri di Ranieri sul gesto di insofferenza di Del Piero al momento della sostituzione contro la Fiorentina, sentite. Ma se gli danno questo piumino che è di Giovinco, ma povero figlio, ma come fa a infilarselo? Va bene? Grazie. Ho 40 anni, scrive un ascoltatore che si firma Max da Bergamo. Ho 40 anni. A 14 venni visionato prima dall'Inter e poi dal Torino. Avevo un futuro davanti, ma tutto si fermò davanti alle esigenze di famiglia. Mio padre in sanatorio, mia madre da sola con altri due bambini. Andai a fare il manovale, non c'è giorno che non pensi all'occasione che mi sono perso. Poi leggo di ragazzi di 18 anni che rifiutano le convocazioni dell'Inter perché non vogliono fare un po' di panchina o un po' di tribuna. Max da Bergamo. Non vorrei che suonasse eccessivamente retorico questo messaggio, ma ce l'ho davanti agli occhi e sinceramente mi ha colpito e sinceramente lo trovo quanto mai pertinente. La vigilia del Milan, un breve frammento di Ancelotti a proposito di Beckham. Rosarena parla a Vanvera, perché il Milan non sta facendo assolutamente niente. Sta usufruendo delle prestazioni di un grande giocatore, di un grande atleta. Poi sarà Beckham che deciderà il da farsi. Il Milan, andiamo a vedere la formazione del Milan di stasera, o perlomeno quella che si può più ragionevolmente presumere. Dovrebbero giocare Abbiati in porta, poi Zambrotta, Favalli, Maldini e Ankulovski in difesa, Beckham, Pirlo, Ambrosini a metà campo, Seedorf e Kakà alle spalle di Pato, confermato come unica punta. Nel Genoa è in campo Milito e avrà ai suoi fianchi Sculli da una parte, come d'abitudine, sulla corsia di destra, e Jankovic dall'altra. Vi dicevo degli altri confronti diretti che sono in programma, sia per la zona diciamo Champions, sia per la zona salvezza. Cominciamo da Roma e risentiamo il frammento del discorso che abbiamo dato ieri in diretta, perché mi pare sia particolarmente significativo a proposito dell'altro ribelle del calcio italiano di questo momento. Se Balotelli lo è probabilmente per immaturità giovanile, Panucci lo è per, come dire, arroganza senile o qualcosa di questo genere. Sentite Spalletti. Cristian il rispetto lo riconosce soltanto dandogli la maglia di titolare sempre, perché se no lui non riconosce il rispetto, e di conseguenza il rispetto invece è quello che lui ha tolto a me non accettando una mia decisione, e ha tolto soprattutto alla squadra in un momento così particolare, importante, non accettando la panchina dove erano seduti Totti, Aquilani e Perrotta. Parole chiare. Ogni tanto Spalletti viene accusato di essere, e lo è, un tantinello fumoso, un tantinello arrampicato sugli specchi. Beh, mi pare che in questo caso abbia parlato in maniera diretta. La Roma gioca con Doni in porta, Sissigno, Mexès, Guan e Rise in linea difensiva, Perrotta, De Rossi, Brighi e poco più avanzato Aquilani in mezzo al campo. Totti rientra in attacco al fianco di Vucinic, con Baptista e Menes in panchina, anche Pizarro e Taddei sono in panchina. La vicenda Panucci, il punto di vista del direttore della società Pradè. La S Roma intende ribadire con fermezza la propria posizione in merito al comportamento tenuto dal calciatore Cristian Panucci in occasione della gara di campionato Napoli AS Roma, non rispettoso nei confronti dei propri compagni di squadra, dell'allenatore, della società e soprattutto dei tifosi. E questo era la posizione ufficiale della società. Panucci ha già detto che per amore della Roma, perché il suo rapporto con la tifoseria, ma anche con gli 8 anni sentimentalmente vissuti a Roma, insomma, in virtù di tutto questo la soluzione sarà, insomma, la sua sistemazione futura, probabilmente immediata, sarà all'estero. Lei, Garanzini, sfiora l'assurdo, scrive Mirko da Bologna. Secondo lei Atalanta-Bologna è senza significato, visto che le partite che ha citato sono le altre, ma io posso citarle anche tutte, ma non mi dirà che Atalanta-Bologna, a differenza delle altre, non è né un confronto al vertice e nemmeno un confronto diretto per la salvezza o per la zona Champions, visto che l'Atalanta veleggia nella parte medio alta della classifica e il Bologna nella parte medio bassa con rischi di coinvolgimento. Comunque il quadro si completa con Atalanta-Bologna per l'appunto, con Cagliari-Siena. E poi cos'altro avanza ancora nel panorama che non ho ricordato prima? No, Torino-Reggina l'ho ricordata, e con Sampdoria-Lazio, che è un'altra partita. Per carità, tutte le partite sono interessanti, ma insomma ci sono quelle che hanno un'etichetta di maggior valenza, di maggior rilevanza, e altre meno, sempre con il permesso dell'amico Mirko da Bologna. Abbiamo sentito il fronte romano, sentiamo Prandelli alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Dobbiamo affrontare il Napoli nella maniera giusta, perché è una realtà, una squadra che sta facendo un campionato veramente di prim'ordine, giocatori molto interessanti, difficili da affrontare, partita aperta, difficile per noi, molto delicata, e quindi cercheremo di coinvolgere ancora di più la nostra gente, perché in questo momento dobbiamo essere tutti uniti. Dobbiamo soltanto andare in campo con l'apporto dei nostri tifosi, con il grande calore che hanno sempre avuto i nostri confronti, aiutarci in questo momento particolare, e quindi unire tutte le forze proprio per dimostrare a tutti che questa è una squadra viva, una squadra che vuole superare tutte le difficoltà. Sì, che poi ci sia un autocontrollo della tifoseria sarebbe particolarmente auspicabile, perché c'è un eccessivo fermento, mi pare di capire, a Firenze in queste ore e in questi giorni. La vigilia del Napoli, che a sua volta non sta attraversando un buon momento. Le parole di Rey. È chiaro che non sempre ti può andare bene, non sempre puoi fare il risultato, perché hanno giocato parecchie partite. La Roma è partita male, la Fiorentina anche, poi sono arrivate altri, il Palermo stessa cosa, poi sono arrivate. Noi siamo partiti bene, possiamo avere anche un attimino così un po' di respiro. I ragazzi vogliono fare bene, noi non abbiamo mai fatto delle partite spente, non abbiamo giocato forse per un tempo, oppure un paio di partite, abbiamo concesso qualcosa in più all'avversario, ma questa è una squadra che ha sempre dato l'anima quando è scesa in campo. E su questo mi pare non possono esserci dubbi. Se c'è una squadra che si è sempre battuta allo stremo delle forze fino ad ora è il Napoli, poi ha avuto dei momenti migliori di questo, si sa anche perché, insomma, la crescita c'è stata, ma come tutte le crescite ragionevoli è graduale e dunque c'era stata forse qualche illusione di troppo prima, ma non ci deve essere un eccessivo senso di ridimensionamento adesso. Questo mi pare il senso delle parole di Rea e anche il senso del percorso che il Napoli ha avuto sino a qui. Ci sono già un paio di ascoltatori che intendono intervenire, vi faccio presente che poi apriremo una parentesi sull'Inghilterra, sia per notizie che arrivano da là, di segno non particolarmente positivo, anzi, che riguardano Robinho, ma anche perché là si è già giocata una parte del turno infrasettimanale ieri sera ed è stato grande protagonista ancora una volta il Manchester United. Ha chiamato Giancarlo dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno, dottor Granzini, intanto complimenti per la trasmissione oggi. Senta, io sono un tifoso dell'Inter deluso. Allora, dirò che ero già scettico quando hanno preso Mancini. Quando è arrivato Mourinho, io ero molto scettico sul personaggio, mi sono un attimo illuso dopo la partita con la Juve che ho visto direttamente a San Siro, che mi sembrava che la squadra desse un attimo di nervo, poi delusione continua. Ecco, mi chiedevo una cosa, lei che è un intenditore del calcio internazionale, non è che per una squadra come l'Inter forse fosse stato più opportuno un tecnico come Rafa Benitez, che mi sembra che sia più adeguato a un tipo di gioco di quello che, almeno come lo intendo io? Ma dal mio punto di vista sì, Giancarlo, senza alcun dubbio. Mi sembra un tecnico molto più duttile, molto meno dogmatico, molto più flessibile. Però il problema è che Mourinho era libero e Benitez no. Benitez stava evidentemente bene dove era, anche perché era a Liverpool. Vedremo, tra l'altro poi insomma, anche di questi argomenti riparleremo tra poco nell'appuntamento già fissato con Nicola Roggero. Sentiamo anche Fabio da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, dica. Sono un abitudinario, quindi rispetto le regole, due domande secche e un suo parere. La prima, quando Baresi dice i nostri nemici sono fuori non dentro, mi deve spiegare, se lei ne conosce il motivo, Garanzini, il motivo di questo senso di vittimismo, prima domanda, no? Nemici fuori, ma calcio, stiamo parlando di calcio e non di guerre, ok. Seconda cosa molto rapida, Panucci non farebbe comodo alla Juve a destra per un anno di contratto, dal momento in cui Zebinà si è perso le tracce e dal momento in cui Grigera, secondo me ancora Panucci oggi qualcosa in più può dire. Grazie Garantini. Grazie a lei. Dunque, sulla seconda non ho alcun dubbio, certo che farebbe comodo, ma io penso che farebbe comodo a tante società, a tante squadre italiane, perché Panucci dal mio punto di vista è migliorato, è come i grandi vini, è migliorato con l'invecchiamento. Nel senso che ha perso quel pizzico di presunzione che aveva in campo e che lo portava ogni tanto a voler strafare, a commettere qualche errore di leggerezza. Evidentemente però non l'ha persa fuori dal campo o comunque negli atteggiamenti che sappiamo. È possibile che queste trattative non ci siano per ragioni di opportunità, perché da un lato insomma, Panucci non vorrebbe lasciare la Roma per andare in una diretta rivale, insomma, credo di aver capito. Poi è vero che le società potenzialmente interessate, io dico che anche al Milan non guasterebbe un Panucci in questo momento, anche se stanno continuando a prendere nuovi e giovani brasiliani, insomma, l'età non è un problema, no? Mi pare, stante quella media della difesa del Milan, che forse per qualche mese potrebbe far comodo anche lì. Non credo però che il futuro di Panucci sarà in Italia. Non escludo nemmeno poi una anche se al momento appare molto improbabile, una soluzione positiva con la Roma, cioè una resipiscenza reciproca, delle scuse reciproche che devono ovviamente partire da lui, però in questo caso. Abbiamo anche cercato Oscar Damiani stamattina, che è il procuratore di Panucci, anzi ieri, per avere qualche dettaglio in più. Damiani ha detto che non parla con le radio, probabilmente non parla con Radio 24, perché con tutte le altre si esibisce a piacere o ripetizione, ma tutto sommato il danno per noi è abbastanza relativo. Oh, poi prima di spostarci in Inghilterra, lo faremo dopo l'intervallo dei mercati, c'è spazio per altri vostri interventi, e poi c'è tutto un capitolo che si è, no, aperto, perché è un capitolo che non si chiude mai, quello degli arbitri, delle moviole, delle proteste, delle congiure, delle grida. È un capitolo che si riapre periodicamente, in genere in modo più virulento proprio in questo periodo. È statistico che verso la fine di gennaio, inizio di febbraio, a cavallo dell'inizio del girone di ritorno, c'è il momento in cui la protesta diventa collettiva. Poi questo non vuol dire che non ce ne saranno altre da qui a fine campionato, ma saranno magari un po' più mirate e non così corali come sono esplose invece in questo momento. Ci sono parecchi interventi in materia, e ne ho di Ranieri, di Prandelli, di Cellino, di Lippi da farvi ascoltare. Vorrei alternarli ai vostri interventi, non necessariamente, anzi no, non perché voi vi esibiate su questo, ma a puro scopo di documentazione. Allora sentiamo ancora Ranieri a proposito di moviole. Come l'anno scorso, ci sono stati una serie di episodi, purtroppo contro di noi, facemmo le nostre rimostranze. Calcio di rigore mi sembra che venne dato a metà del girone di ritorno, il primo calcio di rigore nostro, insomma, eppure stavamo sempre dentro l'area di rigore avversaria, è possibile che non c'era mai stato? Per cui bisogna saperle stemperare queste cose, se no troveremo sempre tutti mille argomenti. Soprattutto dopo aver visto 50.000 volte tutte le moviole del mondo. Questo era, chiedo scusa per il microfono, questo era l'intervento di, mi veniva da dire, Massimo Ranieri, che sembrava abbastanza folcloristico da un certo punto di vista, considerando che pur sempre della Juve si sta parlando e non del Lecce o del Cosenza o dell'Ivrea. Questo era Ranieri. Sentiamo per esempio anche quello di Prandelli a proposito di arbitri. In questo momento Prandelli, Della Valle e la Fiorentina sono un po' l'epicentro della turbolenza arbitrale, non senza più di una ragione, intendiamoci, in base alle ultime partite, ma insomma sono per l'appunto l'epicentro. Prandelli. Il mio stato d'animo è uno stato d'animo di una persona un po' amareggiata, un po' delusa, però con grandi motivazioni, quello che ho detto alla squadra: non ci dobbiamo sentire delle vittime, dobbiamo continuare a ricercare prestazioni importanti come abbiamo fatto contro le grandi squadre, però vorrei capire chi non vuole mettere la tecnologia al servizio di questo sport, perché di fatto la moviola c'è già, perché siamo tutti condizionati, perché ci sono le dirette e quindi automaticamente da subito ci sono i telefonini, quindi gli stessi tifosi sanno da subito se era fallo o non era fallo. Soprattutto togliere una grande responsabilità e una grande tensione agli arbitri. Il problema è quello, gli arbitri vanno in campo e sono condizionati al 100%. Prandelli dunque favorevole all'introduzione della moviola in campo. Per esempio, tra gli altri contrari, leggo, non abbiamo il contributo vocale, ma insomma c'è quello scritto di Gasperini, allenatore del Genoa, che risponde mica Prandelli, ma interviene e dice: assolutamente no, in molti casi nemmeno la moviola riesce a risolvere i dubbi, credo che si debbano accettare le decisioni dell'arbitro maturate in campo, anche se in alcuni casi può risultare difficile. Ed è toccato anche lui, come è toccato a tutti, è una rotazione, credo che chiunque bazzichi, frequenti, conosca, abbia sentito parlare del mondo del calcio, si sarà reso conto che nella partita doppia dei punti dei punti persi per errori arbitrali o guadagnati per errori arbitrali, i primi hanno sempre una rivendicazione forte e assoluta, i secondi chissà perché non hanno paternità. Giuseppe da Pisa, buongiorno. Buongiorno e grazie dottor Garanzini. Volevo fare i complimenti alla trasmissione, ma lo diano tutti, io invece no, perché il mio intervento sembra quasi che i miei predecessori illustri che hanno parlato abbiano previsto il mio intervento. Io volevo solo dire questo: siccome alla Moviola ci stiamo a vedere tutte queste cose che sono successe e alludo proprio a Fiorentina Juventus, volevo scavillare il secondo e dire: il fuorigioco di Gilardino è tenuto in gioco per qualche centimetro da un tallone di un giocatore. Il piede già sarebbe in linea da un pallone di un calciatore che si trova dall'altra parte del campo e che sta rientrando. Domanda: siccome tutti i tecnici che rubano il mio tempo e di altri alla Moviola a analizzare, perché nessuno, e se lei lo ritiene importante nel contesto di questa cosa che non conta nulla, ma dato che se ne parla, perché nessuno ha detto che questo potrebbe essere veramente un fuorigioco, anche se quel tallone dimostra il contrario, perché è tallone. Dico, Giuseppe, ma lei è sicuro? È sicuro che nessuno abbia detto questo? Ma sono giorni che si parla di quei 3 centimetri in più o in meno che c'erano da una parte o dall'altra. Io credo che chi da qualsiasi parte stia e qualsiasi società o squadra o tecnico riguardi, chi si attacca a un episodio del genere con dei centimetri in ballo e ne fa una questione di buona fede o malafede o di persecuzione, è in malafede vera. Lui sì, che poi sia, ripeto, una parte in causa o un commentatore, attaccarsi a un episodio del genere appunto traendone conseguenze come ne sono state tratte, secondo me è pura disonestà dal mio punto di vista. Diverso è l'altro episodio che c'era stato invece in quella partita, e mi riferisco al rigore iniziale che nettamente c'era a vantaggio della Fiorentina. Diverso è dire che la Fiorentina già non era stata trattata benissimo né la partita precedente né tantomeno quella prima ancora in casa con il Lecce, dove invece un assistente aveva commesso un errore grave. Perché se nel caso che dice che lei ha citato si parla di centimetri, in occasione non tanto del primo ma del secondo gol del Lecce a Firenze, i centimetri erano, se non metri al plurale, erano di più, e in quel caso l'errore era abbastanza grave. Vittorio Monza, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno. E sono lieto di ascoltarlo. Senta, volevo porle questa domanda in chiave di convocazione nazionale. Non vedrebbe bene un'ala come Mascara al posto di Pepe? Perché io sono un tifoso del Milan, io l'ho visto giocare questo ragazzo, è veramente in gamba e poi veloce sia in fase offensiva e sia anche nel contenere gli avversari. Mascara, grazie a lei Vittorio. Mascara è un giocatore che a me piace moltissimo sul piano tecnico, mi piace molto meno sul piano caratteriale e comportamentale, dove ha dei limiti non da poco. Mi sembra che li stia superando, o stia sforzando di superarli, ma sono sempre un tantino in agguato. Non mi pare che Mascara abbia più le caratteristiche dell'ala come invece ha Pepe. Mi sembra che stia giocando un po' più da playmaker, soprattutto adesso con Zenga. Domenica per esempio a Genova ha giocato tutto un secondo tempo almeno il secondo tempo da interno, e tra l'altro con eccellente profitto. È anche un signor colpitore da fermo, ha un calcio di primo ordine. È un giocatore molto molto interessante che potrebbe anche far comodo, secondo me, a Lippi, sempre che i comportamenti siano, e sempre che non patisca poi un salto di categoria, perché un conto è giocare in un ambito, un conto è giocare in nazionale. Da Reggio Emilia, Cristian, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, grazie per avermi richiamato. Mm-hmm. Io volevo chiederle una cosa, volevo un suo parere personale su Menez, perché io vedendolo giocare, questo è un mio parere personale, cioè in certe cose, in certe movenze, in certe accelerazioni, in certi, diciamo così, cambi di passo, a me ricorda molto Kakà. Non vorrei bestemmiare, no. Vorrei sapere cosa ne pensa lei di Menez. Io penso che in certe invece in certi movimenti, che però sono più rapidi, ricorda Zidane, che è un paragone altrettanto impegnativo. Io auguro a Menez di non ricordare né Kakà né Zidane, e di essere il giocatore che promette, di diventare il giocatore che promette di essere, perché qualità ne ha sicuro e non sono poche. Poi come tutti come tutti i giovani, in, non dico in formazione, questo è già fatto e finito, ma in, in divenire, beh, insomma, qualche accenno di personalismo, qualche difficoltà ogni tanto a inserirsi nel gioco e a far parte di un collettivo, come invece la Roma ha, è di primissimo livello, però indubbiamente qualità di qualità molto ma molto interessanti ci sono in questo francesino. Sentiamo ancora un ascoltatore e poi facciamo il secondo intervallo. Teodoro, provincia di Foggia, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Senta, volevo fare solo una precisazione e poi sì. chiedere una sua considerazione. La precisazione è, io sono un tifoso del Napoli, ho visto la partita domenica, sono stufo di queste querelle nei confronti degli arbitri. Gli arbitri fanno un lavoro abbastanza difficile e quindi le decisioni, il fuorigioco, io tendo a pensare bene degli arbitri, perché sennò si finisce che il gioco del calcio, che è una cosa stupenda, si finisca e niente di più. Benissimo. E senta, è un'altra cosa, io, vedendo sempre il Napoli, quello che mancava il Napoli e la differenza nei confronti della Roma era Pizarro, o un giocatore come Pizarro, un giocatore che gli dai la palla, ti fa ragionare ed fa da collante, quello che manca attualmente al, al Napoli, perché non si può pensare che Lavezzi possa sempre risolvere con il colpo di genio. Cosa ne pensa lei? Penso che nei suoi momenti migliori Gargano è un giocatore che ha qualche caratteristica di Pizarro ed è anche un pochino meno mangiapalloni, se vogliamo, nei momenti, parlo del Pizarro, dei momenti meno, meno brillanti. Poi insomma, è una questione di personalità, di abitudine, anche di chi ti ronza intorno e ti dà soluzioni di gioco. Nei momenti migliori della Roma, quando Pizarro porta il pallone e sembra magari portarlo anche troppo, è perché in quel momento non si stanno muovendo bene, ma quando si muovono bene si muovono in 4-5 insieme e lui ha tante soluzioni di gioco, cosa che nel Napoli sono un tantinello più rare, ecco, da questo punto di vista. Quindi dipende sempre anche da chi hai intorno, se sei un costruttore di gioco. Si diceva dell'Inghilterra che ha già, non completato, ma insomma è già arrivato quasi alla metà di questo turno infrasettimanale di campionato, con l'impresa del Manchester che ha vinto molto largamente in trasferta, ma l'impresa soprattutto di Van der Sar, che ha battuto il record di imbattibilità in Premier League, mi pare. Però ne chiedo conto a un esperto vero di calcio inglese come Nicola Ruggero. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Confermo tutto, Van der Sar è arrivato a 1031 minuti, fanno 11 partite e un pezzo di imbattibilità, ha superato il record, che tra l'altro era recente perché era di Peter Cech del Chelsea, che rimase imbattuto tra il dicembre del 2004 e il marzo del 2005. Ieri c'è stata una situazione abbastanza divertente, perché a Van der Sar occorrevano 84 minuti nella partita con il West Bromwich Albion per ottenere questo record. All'84esimo il punteggio era 5-0 per il Manchester, per cui se fosse arrivato uno che non sapeva di questo record allo stadio avrebbe pensato che Van der Sar era impazzito, perché all'84esimo su un calcio d'angolo del West Bromwich Albion il portiere olandese ha cominciato a dare disposizioni come se stesse giocando la finale di Champions League. Sì. Con giocatori del Manchester che ovviamente ridevano, però Van der Sar preoccupatissimo, anche perché il West Bromwich gli angoli ne ha battuti ben due e nella terra di Agatha Christie sarebbe stato veramente un colpo straordinario. Sì. Con il povero Van der Sar che perdeva il record praticamente a pochi secondi della sua esecuzione. Io personalmente sono molto contento per Van der Sar, perché è un portiere che in Italia ha una fama un po' sinistra legata al suo periodo negativo alla Juventus. Sì. Dove fece, a mio parere, non tanti errori, il problema è che li fece importanti. Certo. Un po' come capitava a Nicolai, sì, per i più giovani. Nicolai dello scudetto era un po' l'anti-Riva, cioè quello che Riva faceva Nicolai distruggeva. Non ne fece tante d'autorete Nicolai, ma le faceva spettacolari, al punto che in panchina il grande filosofo Maglio Scopigno una volta si alzò a applaudire e disse bel gol, insomma si è arresa questa caratteristica di Nicolai. Ecco, Van der Sar fece due errori importanti contro la Lazio e contro la Roma, che di fatto poi costarono lo scudetto alla Juventus, perché lo perse poi di un punto proprio con la Roma. Certo. Però insomma è un portiere che è il primatista di presenza nella nazionale olandese, è uno dei pochi giocatori, anzi l'unico portiere ad aver vinto due Coppe dei Campioni con due squadre diverse, l'Ajax e il Manchester United. Nota a margine, in quell'Ajax giocava con Clarence Seedorf, che invece è l'unico giocatore ad aver vinto la Coppa dei Campioni addirittura con tre squadre diverse. Non è male questo ripasso, no? statistico ma storico anche da un altro punto di vista. Senti, dall'Inghilterra, oltre a queste belle cose, ne rimbalzano anche le negative. Per esempio c'è l'ennesimo caso di un'accusa pesante di un'aggressione sessuale da parte di un calciatore. Il calciatore è niente meno che Robinho, quindi appena tornato dal Brasile, tra l'altro, che avrebbe aggredito una ragazza di 18 anni in una discoteca di Leeds circa 2 settimane fa, quindi probabilmente prima di partire per il Brasile. Sono atti ricorrenti da quelle parti, al punto che io non riesco a capire, non vorrei mettere in piedi un trattato di sociologia spicciola in due, ma non riesco a capire se da quelle parti siano davvero così violenti i calciatori, che invece altrove hanno comportamenti più normali, o non siano magari invece più frequenti le situazioni che si prestano a generare poi situazioni equivoche o situazioni anche di violenza, ma che comunque chissà perché soltanto lì e altrove no. Parlo di quel mondo, parlo del mondo del calcio. Guarda Gigi, io credo che in Inghilterra ci sia una combinazione di 3 fattori tutti insieme. Anzitutto i calciatori, soprattutto gli inglesi, continuano ad avere il brutto vizio di esagerare al bancone del pub con l'alcol, con l'alcol e con situazioni purtroppo anche drammatiche, come si vede nel caso recente di Paul Gascoigne. Certo. E questo certamente non favorisce un comportamento in linea con i canoni insegnati a Oxford o a Cambridge. Il secondo punto è che in Inghilterra non credo che si sappia dell'esistenza della frase "lei non sa chi sono io", per cui quando la magistratura, un poliziotto o un'autorità interviene, il fatto che a commettere il reato sia lo sconosciuto Nicola Roggero o Stephen Gerrard, tanto per dire un altro che pare che si sia messo nei guai, capitano del Liverpool, non cambia assolutamente niente, si finisce dritti in galera e poi dopodiché si accerta se uno è colpevole o meno. Certo. Mentre in altri posti credo che più facilmente, quando si tratta di personaggi importanti, la cosa venga in qualche modo messa a tacere o comunque insomma si cerca di coprirla. Il terzo fattore è la presenza dei tabloid, che sono quegli orridi fogli che certo non fanno onore al giornalismo anglosassone, che noi invece conosciamo per ben altri meriti, e che invogliano molto spesso, se non i tabloid stessi, ad organizzare delle trappole. Io ricordo per esempio quella del finto sceicco che offrì ad Ericsson un incarico mentre era CT della nazionale inglese, ed Ericsson ebbe l'ingenuità di rispondergli e si trovò praticamente tutta quella dichiarazione stampata su uno di questi giornali. Com'era? E quindi tante volte c'è, non solo da parte dei giornali, ma anche da parte di persone che cercano pubblicità o più facilmente cercano dei quattrini, di andare a mettere nei guai personaggi celebri per riuscire a spuntare dei soldi. Ora non entro per carità nel merito del caso di Robinho, perché qui anche parliamo di un reato fra l'altro molto grave, e lo stupro, e so che anche in Italia recentemente si sono fatte delle battute decisamente a sproposito in tal senso, quindi non voglio assolutamente entrare nel merito della questione Robinho. Diciamo che c'è questo terzetto di combinazioni, sì, l'alcol, una severità assoluta delle autorità e i tabloid, che favoriscono di più rispetto ad altri paesi il generarsi di questi casi. Ogni tanto mi arriva qualche lettera o qualche email dall'Inghilterra, la gente che risiede lì su e che grazie al podcast e a tutte le altre diavolerie moderne, benvenute e benedette, ascoltano anche questo programma. Un paio di loro mi hanno fatto presente che il nostro stupore attuale per certe intemperanze del personaggio Mourinho li sta stupendo, nel senso che sono stupiti dal nostro stupore. Ma dato che non sono così poi documentato, che precedenti ha Mourinho da questo punto di vista in Inghilterra? Guarda, Mourinho in Inghilterra si comportava esattamente come in Italia, con il vantaggio che gli inglesi forse quando parlano di sport, a parte ovviamente il famigerato caso degli hooligans, tendono ad avere un atteggiamento un pochino più sereno. Inoltre a Mourinho le cose in Inghilterra, almeno per i primi 2 anni, erano andate molto bene, perché ai primi 2 colpi ha vinto 2 campionati consecutivi, anche se poi ha fallito la Champions. Ma regolarmente, tutte le volte in cui Mourinho era in difficoltà con il suo Chelsea, immediatamente trovava il modo di spostare l'attenzione dai risultati negativi della squadra a qualche fattore, che potevano essere gli arbitri, che potevano essere, non so, una volta io ricordo che polemizzò perché gli inglesi l'avevano accusato di vestire male, e allora lui rispose: questi inglesi non capiscono niente, non capiscono nulla di moda, perché questo è un cappotto firmato facendo riferimento invece a dei favori che venivano elargiti al Manchester United, intervenne Sir Alex Ferguson, il quale disse testualmente: Mourinho ha aperto una lattina di vermi, che è un termine abbastanza usuale in Inghilterra, quando si dice si va a suscitare un vespaio, ecco, sì, come si dice in Italia, e ricordò con molta calma che Mourinho aveva vinto la sua Coppa dei Campioni con il Porto grazie al fatto che all'Old Trafford nella partita con il Manchester United venne annullato un gol a Scholes che era in posizione perfettamente regolare. Come dire, insomma, gli arbitri ogni tanto fischiano a favore, ogni tanto contro, ma certo se si arrabbia soltanto quando fischiano contro si solleva appunto una lattina di vermi. Ricordo una sfida con il Barcellona in cui Mourinho sentiva di essere obiettivamente inferiore alla squadra che poi fra l'altro avrebbe vinto la Coppa dei Campioni, quella con Messi, con Eto'o, con Ronaldinho e con Rijkaard in panchina. Ebbene, ne studiò di tutti i colori, fece una polemica infinita, riuscì a essere polemica persino su un'espulsione di Delorno, giocatore basco allora, sì, al Chelsea, che fece un'entrata su Messi in cui a mio parere il cartino rosso era poco, perché sì, sì, secondo me ci stava anche l'arresto. Lo ricordo bene, era un intervento criminale, no? un tentativo di quel genere davvero, e Mourinho naturalmente difesa spadattata del suo giocatore, accusò l'arbitro di congiuro in quel caso. Questo lo ricordavo. Fu, credo, in uno di quei casi che il responsabile dei fischietti degli arbitri dell'UEFA, Roth, come ha ricordato ieri il Corriere dello Sport, etichettò Mourinho come nemico del calcio addirittura, che mi sembra un'etichetta pesantina, insomma, e che però Mourinho era stato bravo, arrivando in Italia, a non trascinarsi, no? Sì, ma la cosa che spiace è che Mourinho è un allenatore certamente preparato, fra l'altro è un mago della difesa Mourinho. Chi si aspettava un gioco spettacolare dalla parte dell'Inter sbaglia, perché il suo Chelsea era una straordinaria macchina difensiva, abilissima per esempio nel gestire un vantaggio di 1-0, che è la situazione ideale di Mourinho, tanto che al Chelsea ha sempre giocato con una sola punta, che era Drogba, appoggiato da due ali veloci, quindi mai due punte per Mourinho. Detto questo, è un peccato che un personaggio certamente preparato e certamente anche molto intelligente, lo dimostra la sua capacità di reggere una scena, il microfono, di attirare su di sé le attenzioni, ricorra a questi mezzi che poi appunto ne sminuiscono in qualche maniera il valore. Parliamo, d'accordo, di un attore che ha vinto una Coppa UEFA con il Porto e soprattutto una Champions League con il Porto, che la Champions League l'ha sfiorata con il Chelsea, venendo eliminato due volte dal Liverpool, una volta con un gol fantasma e un'altra volta soltanto ai calci di rigore. Quindi parliamo di una persona certamente molto preparata. A mio parere in questo momento Mourinho sa perfettamente che un campionato che tutti pensavano che l'Inter avrebbe vinto facile, e invece facile non sembra. Una Champions League dove all'Inter tocca il Manchester United, e peggio insomma non gli poteva andare, insomma poteva andargli uguale con il Barcellona, ma per tutto il resto gli sarebbe andata meglio. Ecco che allora Mourinho esaspera questo suo lato del carattere, teso appunto ad attirare le attenzioni su di sé per provare a distrarre le attenzioni della gente, dei tifosi, della stampa, dalle prestazioni della sua squadra, B, nel tentativo di preservare i suoi giocatori dalle, certo, polemiche. Noi ancora ci stupiamo, gli inglesi a quanto pare no, perché lo conoscono meglio di noi. Grazie Nicola Roggero. Grazie Gigi, grazie agli ascoltatori. Arriva una mail favorevole a Mourinho, è firmata Franco. E la leggo. Mourinho è il venditore di fumo che ha vinto campionati e Champions League in varie squadre. Il venditore di fumo è primo in classifica con 3 punti sulla seconda, è in semifinale di Coppa Italia, nei 16esimi di Champions League e ha già vinto una Supercoppa. Mi raccomando, lo dica in diretta. Accontentato, direi, come potrà aver sentito. È il momento del ripasso di storia. Il 28 gennaio nella storia dello sport, Nicola Filippone. Sembra ieri. 28 gennaio 1979. Esordisce in Serie A il 24enne Franco Tancredi, che nel secondo tempo di Roma-Verona subentra tra i pali a Paolo Conti. Tancredi difende con successo il 2-0 giallorosso, maturato nei primi 45 minuti grazie a una doppietta di Ugo Lotti. A partire dalla stagione successiva, l'Idol gli affiderà il ruolo di portiere titolare. In 13 anni di Roma, Tancredi ha vinto uno scudetto e 4 Coppe Italia. In campionato ha giocato 258 gare consecutive, dal 27 aprile dell'80, Inter-Roma 2-2, al 29 gennaio dell'89, Fiorentina-Roma 2-2. Una striscia record, seconda solo a quella di 332 presenze, realizzata da Dino Zoff. Un po' di post. Roberto Brivio da Lecco domanda in tempo reale: quali sono le immagini che la commissione esamina per decretare la sospensione, la squalifica per prova televisiva? Sono immagini Rai, Mediaset o sono prodotte in proprio? Io ci colgo qualche sospetto da interista in questa domanda. Sono immagini Sky, sono le immagini delle riprese dirette della partita la domenica, quelle che vengono regolarmente mandate in onda in diretta e su cui poi e credo siano le uniche ammesse per questo genere di indagine suppletiva. Lei mi ha quasi convinto, scrive Luigi da Parma, sulla inutilità della moviola. Faccio un inciso, io non intendo convincere nessuno, a domanda rispondo e dico qual è la mia opinione. Ieri però ho letto, continua Luigi, che Prandelli dichiara che serve invece la moviola in campo. L'abbiamo appena sentito, tra l'altro. Non è che quando si perde, anche se ingiustamente, tutti, ma proprio tutti, cercano scuse e alibi. Ma insomma, Luigi, questo l'ha detto lei. Io è un sospetto, anzi una certezza che ho da sempre. Marco da Milano, buongiorno. Sì, Garanzini, buongiorno. Dica. Vorrei fare semplicemente due osservazioni. La prima inerentemente a Mourinho e al leggero confronto che è stato comunque fatto in questi giorni con Galeone, se non comunque da lei, da qualche telespettatore che aveva, radioascoltatore scusi, che aveva contattato. No, ma non è stato fatto un confronto con Galeone, perché sennò a quest'ora non avrebbero già portato via. Non quello, però volevo dire, è abbastanza ingeneroso dire ad esempio che Galeone, è vero che Mourinho ha vinto allenando squadre più forti, però io capisco che anche i Don Chisciotte che combattono contro i mulini a vento siano spesso più simpatici da sostenere, in tal caso Galeone, però voglio dire, bisogna essere anche contattati da squadre forti per poterle allenare, e non mi sembra che né Manchester né Chelsea abbiano mai pensato a Galeone come allenatore. No, certo. E poi, per fortuna dell'Udinese e del Pescara, nessuno ha nemmeno mai pensato a Mourinho per il Pescara Udinese, dal mio punto di vista, certo. Per fortuna magari del Porto, che ha vinto la Coppa dei Campioni. Sì, come no, certo. E poi ecco l'altra cosa, volevo dire, ho sentito adesso poc'anzi nella sua trasmissione Ranieri parlare del fatto che l'anno scorso comunque lui o la Juventus in generale hanno accolto di buon grado le decisioni arbitrali sfavorevoli, quantomeno l'anno scorso, nei confronti della Juventus. Ma io ricordo un episodio, credo più imbarazzante della storia del calcio italiano, di una lettera spedita alla federazione da parte del suo presidente Coboldi Gigli, dove lamentava non so cosa. L'ho ricordata ieri, esatto, anch'io, come un caso limite, Marco. Grazie. Senta, a proposito di torti, mica torti, eccetera, senta questa mail che mi arriva da Federico, tifoso del Genoa, che scrive testualmente: perché non affidiamo a un authority il compito di stilare una classifica di errori arbitrali e conferiamo i punti non assegnati all'inizio della stagione successiva? E l'ho riletta tre volte per convincermi che questo ragazzo, credo, davvero proponeva, dato che in Italia appunto abbiamo problemi da tutti i punti di vista e soprattutto abbiamo poche authority, propone questo di istituire un authority per stilare una classifica di errori arbitrali, su che basi poi naturalmente tutto da vedere, e di conferire i punti non assegnati all'inizio della stagione successiva. Mi domando chi dovrebbe essere poi a presiedere questa authority, se, non so, Baldass, l'ex moviolista di Biscardi, o Biscardi stesso, oppure chiamiamo in causa il capo della cupola o chi, insomma, sarebbe un'ideuzza interessante. Luca, Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, senta, tanto Dica. Grazie. E poi volevo fare una domanda, anzi, volevo una sua considerazione su Zárate. Visto che è un grandissimo talento, non pensa che però ha troppa insufficienza tattica, visto anche la partita di Coppa Italia con il Torino, e soprattutto non rischia troppo, non mette troppo a rischio la squadra, secondo lei? Adesso che sia poi così un problema per la squadra non saprei. Certamente io credo che fosse stato un po' sopravvalutato all'inizio, e mi pare che dopo, poi non che non abbia qualità, Zárate, queste si vedono con facilità a occhio nudo, però mi sembra che abbia questo vizio questa caratteristica del veneziano, come si chiamavano una volta, cioè del ghirigoro, del ricamo ad ogni costo, del giocare di preferenza da solo, anche se poi c'è stata una partita che non ricordo quale in questo momento, ma siamo un paio di settimane fa, in cui ha messo invece un paio tre di assist a Pandev, ecco, e Pandev segnò tre gol. Ecco, quando riesce a essere un po' meno personale, anzi personalista, allora è certamente un giocatore più utile alla squadra. Quando si intestardisce lo è meno. D'altra parte, insomma, viene da esperienze non particolarmente di alto livello, no? E quindi se la sta facendo a proprie spese questa esperienza, e in qualche caso a spese della Lazio, ma credo che essendoci eccellenti qualità sia un prezzo che la stessa Lazio paga volentieri, questo almeno immagino. Alberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare della squalifica di Adriano, sì, che è già stata discussa. Ma io sono un tifoso interista e io sono molto arrabbiato con Adriano e con la società. Cioè, secondo me, io vivo in un altro mondo probabilmente, ma una società come l'Inter dovrebbe dare una bella multa ad Adriano, perché il danno che Adriano crea all'Inter è alto. E invece questo continuare a coprire le magagne non solo di Adriano, ma di qualsiasi giocatore, le società, pur di vedere nell'immediato un guadagno, danno un bruttissimo esempio di come ci si dovrebbe comportare. Io la vedo molto, non so, non voglio fare il falso il moralista o altre cazzate, altre cavolate, scusi. Sì. Però secondo me uno che dà un pugno a una persona deve essere giustamente squalificato, e giustamente dovrebbe essere comitata una bella multa in percentuale agli ingaggi che prendono, perché se una cosa del genere succede poi in Coppa dei Campioni, nella Champions League, il danno è ancora più maggiore per l'Inter. E non riesco proprio a capire questi comportamenti, vabbè, dei giocatori sono un po' viziati, ma le società di calcio in generale, perché certo, si testardiscono a difendere la difesa d'ufficio, insomma. Non io ho grande stima di Prandelli, però io sto sentendo in questi giorni degli accenti che posso capire, però ci sta mettendo la stessa passione che ci mise a difendere il Girardino per un riflesso magari, ma secondo me comunque per un episodio indifendibile da un punto di vista, diciamo, del fair play. E quindi ci sono dei casi in cui lo spirito d'appartenenza e la difesa d'ufficio di un proprio giocatore da parte di una società, da parte di un tecnico, che sono evidentemente sono atti dovuti, insomma, e sono quasi automatici, a costo di essere acritici ad ogni cosa, insomma, in ogni modo. C'è un ultimo ascoltatore in attesa, che è Luca da Genova. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, grazie mille, complimentissimi per la trasmissione. Grazie. Una considerazione di questo genere, volevo sapere la sua opinione, in merito alla Moviola. Io sono una persona che non ama la Moviola e non segue le trasmissioni che ci propinano più di una partita di pallone di Moviola, normalmente, come minutaggio. Ma se riducessero i rimborsi spesa degli arbitri e dei guardalini attuali e togliessero il quarto uomo, perché non potrebbero mettere altri due guardaline per coprire le fasce che rimangono scoperte? Questa è la prima cosa che volevo chiederle. La seconda, ho sentito in una di queste tante trasmissioni, se non ho capito male, che nella partita di Napoli-Roma il gol è stato annullato su segnalazione del quarto uomo, che avrebbe visto delle immagini in televisione. Se così fosse, le partite dove ci sono stati dei grossi errori dovrebbero essere quantomeno rigiocate, secondo me. Ascolto per radio. Dunque, mi incuriosisce di più il punto primo, cioè questa specie di ridistribuzione della ricchezza e delle risorse, soprattutto in campo, per meglio valutare. Io non so di questa interpretazione di Napoli, mi rifiuto di credere. Cioè, è già abbastanza grave che un arbitro non abbia visto che Zalaeta ha controllato la palla con il braccio dopo averla toccata in un primo tempo con il petto, e in maniera ovviamente evidentemente volontaria. Se non l'avessero visto nemmeno a occhio nudo il guardaline e il quarto uomo, beh, saremmo davvero combinati male. A quel punto si potrebbe risparmiare sulla trasferta di tutti e arbitrare come si faceva l'oratorio una volta: io chiamo il fallo per i miei e tu chiami il fallo per i tuoi. Insomma, sarebbe abbastanza grave. Grazie a Flavio Suardi in redazione, a Fabio Cantadori in regia, Giornale Radio.